Vi sarete accorti anche voi, suppongo, che l'atteggiamento delle principali forze politiche e dei loro portavoce mediatici a proposito della campagna secessionista che l'onorevole Bossi conduce con zelo e inventiva in questi giorni suona piuttosto strano. Il loro atteggiamento, non la campagna, rivela quantomeno una preoccupante tendenza alla schizofrenia. Da un lato non fanno che dire che quelle non sono altro che ciance, che Bossi conti alla mano in minoranza anche al nord, che nella Lega stessa i secessionisti veri sono pochi, pochissimi, che ha una stima molto prudente, si può calcolare che a favore dell'atto estremo siano non più del 5% degli elettori, che avranno pure il diritto di pensarla come vogliono, ma sono incapaci nel complesso di rappresentare un serio pericolo per l'unità del paese. E poi dicono che la Padania è soltanto un'espressione geografica, e figurarsi se il nord-est è disposto a fare stato con il nord-ovest, e che Venezia ha un'insostituibile vocazione di centro internazionale, che non si capisce cosa c'entra, ma lo dicono lo stesso, e insomma quell'eccentrico parlamentare lì, con i suoi governi suove, i suoi comitati di liberazione, le sue camicie verdi, le sue pivette e i suoi maroni, è poco di più che un personaggio folcloristico, e alza la voce soltanto perché altrimenti sparirebbe per sempre dalla lingua della politica. Insomma, sono tutte sciocchezze di cui non vale praticamente la pena di parlare. D'altro canto, vedete anche voi che non fanno altro che parlarne. Presidenti vari continuano a invocare i sacri valori, meglio se in presenza di forze armate variamente schierate, e i ministri deplorano e minacciano sanzioni esemplari, i giornali sparano un titolone via l'altro, compreso quando, come ieri per esempio, non c'era assolutamente nulla su cui titolare, gli editorialisti discettano. Abbiamo visto schierarsi a difesa dello Stato unitario persino dei soggetti che a rigor di logica dovrebbero occuparsi di tutt'altro, e anzi, che da un bel po' di tempo dimostravano la ferma volontà di non schierarsi su che sia, come fossero i sindacati. E così che se al governo, come forse ricorderete, non ci fossero i nostri, verrebbe naturale il sospetto che i suoi esponenti parlino tanto di questo argomento, che pure dichiarano essere praticamente insignificante, perché di qualche cosa d'altro preferiscono non parlare, e che da contrapposizione con Bossi faccia alquanto comodo alle forze di governo insieme a quelle d'opposizione, perché così non devono contrapporsi tra di loro, che è un'operazione in un paese della cultura politica così incline al consociativismo come il nostro terribilmente faticosa. Però sospetti maligni a parte, è evidente che il problema c'è. Senza scomodare la storia, senza rievocare Cattaneo e Gioberti poveretti, senza riandare con la mente alle tante proposte federalistiche abortite con la conclusione sabauda del Risorgimento, anche se mi sembra che l'unica che prevedesse un'Italia del Nord unita era quella affatto transitoria uscita nel 1858 dai protocolli di Plombiere. Lasciando perdere tutto questo, sappiamo tutti che il sistema centralistico prefettizio ha fatto un po' il suo tempo, e che l'ordinamento regionale ordinario, come previsto dalla Costituzione e come in vigore da 35 anni, mi sembra, si è rivelato del tutto inefficace. E sappiamo anche tutti che se il problema c'è, nessuna tra le forze responsabili finora ha dimostrato la minima intenzione di risolverlo. E la questione del federalismo è all'ordine del giorno da una decina d'anni, e mai nessuno ha fatto niente in merito, assolutamente niente. Neanche con il governo Berlusconi, quando c'era il governo Bossi e Maroni era il ministro degli interni, e neanche con Dini, quando Bossi era elemento insostituibile della maggioranza parlamentare, figuriamoci adesso, quando l'unico ruolo che gli altri sembrano disposti a riconoscergli è qualcosa di mezzo tra rompicoglione istituzionale e lo scemo del villaggio. Per cui non gli rispondono neanche anche quando gli capita di fare proposte sensatissime, come quella dell'abolizione dei prefetti, che oltre che avanzata, come ricordano tutti, da Einaudi, è stata a lungo nei programmi della sinistra, e questo sembra che non lo ricordi nessuno, oppure quella di passare i segretari comunali alle dipendenze dei relativi municipi. A parole sono tutti federalisti, siamo tutti federalisti. È federalista il Presidente del Consiglio, sono federaliste le principali forze politiche che lo sostengono, sono federaliste praticamente tutte le forze d'opposizione, tranne forse AN, che comunque con Bossi al governo c'è stata. Sono tutti federalisti, tanto federalisti che spiegano un giorno sì e anche un giorno anche che il problema è quello di incrementare il decentramento amministrativo e le autonomie locali, che sono due cose bellissime, ma hanno il piccolo difetto che con il federalismo, come evidente a chiunque abbia chiave i termini del problema, non c'entrano assolutamente nulla. E in ogni caso, quando vengano enunciate, vengano espressamente subordinate al mantenimento del quadro unitario, prefetti compresi. L'Italia è un paese strano, lo sappiamo, no? In cui la pratica politica più diffusa è quella dell'ossimoro. E visto il successo che poco prima delle elezioni ha avuto il presidenzialismo parlamentare, non c'è niente di strano che dopo le elezioni trionfi il federalismo unitario. Sono in fondo tutte varianti sul vecchio tema moroteo delle convergenze parallele e come quello servono essenzialmente a prendere in giro l'interlocutore. E quando si dice interlocutore preso in giro non si allude a Bossi, che probabilmente sa benissimo come destreggiarsi e sul federalismo e sulla secessione deve essere dispostissimo a transigere oggi come ha fatto ieri. Si parla sempre e comunque di noi. Prendere coraggio e fede nel destino. Se papà ti metti per castigo al buio, poi di notte a letto, zitto che c'è il lupo, zitto che c'è il lupo, zitto che c'è il lupo. E la mamma dice chiama l'uomo nero, chiama il babbo, ti mangia tutto intero. Nella notte scura ti fa la puntura, ti fa la puntura, ti fa la puntura. Ma passa per il buio senza paura.